Siamo in collegamento telefonico con Francesco Notarangelo di Mescalito Film per parlare dell'uscita in sala di Fiore Ribelle di Christian Huda in uscita il 15 marzo. Francesco, ben ritrovato. Sì, buongiorno a tutti, grazie. Ce lo racconti questo film? Sì, certo. Allora, diciamo che la prima parte di una trilogia che al momento è in post-produzione, che tratta l'adolescenza del maestro Osho. È stato presentato in diversi film, in diversi festival, come ad esempio il Salento Film Festival, e c'è stato un discreto successo di pubblico. Senti, quali sono gli elementi di questo lavoro che più ti hanno convinto? Guarda, fondamentalmente noi volevamo riuscire a rivalutare la figura del maestro, perché come ben sai, insomma, ci sono grosse prese in giro nei social del maestro, quindi Sì. volevamo dare una nuova luce alla figura del maestro Osho. Poi il fatto che fosse girato in India per noi era un incentivo a prenderlo, perché come distribuzione vorremmo riuscire a, diciamo, ad avere una distribuzione ramificata un po' in tutto il mondo, quindi siamo aperti a qualunque opera. E poi perché ovviamente sapevamo che magari si potevano fare delle proiezioni evento, quindi con devoti e discepoli che vanno lì in sala e raccontano chi è il maestro e quali insegnamenti ha dato. Questi sono stati. Senti, che personaggio esce di Osho da questo lavoro? Guarda, esce un personaggio che era molto attento alla ricerca della verità e a un suo equilibrio. E racconta la sua trasformazione che ha avuto da ragazzino a giovane, che si appresta ad avere un ruolo importante nel mondo. Questo è il messaggio che vorrei pass che passasse attraverso il film. Senti, ci racconti anche un po' di quest'autore, di Christian Huda? Allora, è un autore indiano che, da quello che ho capito, oltretutto ha vissuto per un certo periodo col maestro Osho prima che lui si trasferisse in America. Come dicevo prima, sta girando oltretutto altre due opere, sempre sul maestro Osho, che riguardano le diverse fasi della sua vita e che dovrebbero uscire nei prossimi anni. E questo so del maestro Kusha, purtroppo non ho mai avuto un contatto diretto, anche se volevamo portarlo in Italia appunto per poter presenziare la prima a Roma, però non ci sono permesso. Senti, quali sono gli elementi portanti di questa disciplina di Osho? Fondamentalmente la ricerca dell'equilibrio e di avere un rigore morale nella sua vita, nonostante il maestro fosse, come dire, anche una persona spiritosa che amava prendersi in giro, questo direi, quindi seguire un proprio rigore, una propria morale. Senti, per quanto riguarda Mescalito Film, ci ricordi un po' la sua attività? Sì, certo, siamo partiti come produzione, poi siamo stati una co-distribuzione di Cineama, che era una distribuzione di Roma. E poi siamo arrivati al punto di essere una vera e propria distribuzione indipendente. Dopo Osho, presupponiamo di uscire con un film cinese, 67 giorni, che tratta il viaggio, l'impresa di un ragazzo che ha attraversato una parte della Cina disabitata in bici. E poi stiamo valutando altre opere, tra cui ci tengo a dire Fragile Equilibrio, che è un documentario splendido. Fiore Ribelle, che tipo di uscita avrà? Noi ci auguriamo che possiamo raggiungere quante più piazze possibili. Come dicevo prima, il nostro intento è quello di riuscire ad organizzare delle proiezioni evento alle quali possono presenziare discepoli e devoti, al fine di rivalutare il maestro, magari cercando anche di spingere eventuali interessati al mondo della spiritualità, della meditazione. E quindi ci auguriamo che possa essere quanto più ramificata e capillare possibile. Allora, ricordiamo Fiore Ribelle di Christian Huda, in uscita in sala il 15 marzo per Mescalito Film. Un saluto a Francesco Notarangelo, a presto! Grazie, grazie mille Federico, a presto.